6. Il racconto di una beghina di Marguerite Porete e di Mechthild von Magdeburg. Il mio nome non ha importanza. Fui beghina nella prima casa che si fondò a Nivelles 8 secoli e mezzo or sono. L'aspirazione mia e delle mie compagne era trascendere l'ego vivendo la via dello spirito nella quotidianità. Per questo il mio nome non importa. Io fui beghina. E al solo ricordo di ciò che di magnifico condivisi con le mie sorelle in quella incarnazione, ancora mi batte il cuore per la gioia e l'orgoglio. Ma vi narrerò come vivevamo, così da prepararvi ai racconti delle venerabili che dopo di me parleranno, Marguerite e Mechthild. Fummo una comunità di donne libere, indipendenti, che senza prendere i voti e senza il riconoscimento da parte delle istituzioni ecclesiastiche conducevano una vita casta e povera nel beguinage. Il primo si riunì a Nivelles in Belgio nella seconda metà del 1100. Eravamo mistiche che desideravano una vita semplice ed essenziale. Finché non cominciarono a perseguitarci, incarnammo, insieme alle regine del Rinascimento italiano e alle preziose del Settecento francese, una tra le esperienze di vita femminile più libere della storia. In quel tempo le donne non potevano scrivere o discutere di religione, pertanto trovammo un modo per esprimere la nostra spiritualità femminina, la quale non poteva essere imbavagliata più a lungo dal silenzio coercitivo, dall'obbligo di scegliere tra un marito o un convento e dal continuo insistere sulla nostra inferiorità morale e giuridica che i padri della Chiesa, indottrinati da Paolo di Tarso e Aristotele, sostenevano. Nel nord dell'Europa, Fiandre, Olanda, Francia e Germania ci unimmo, donne di ogni estrazione sociale, e andammo a vivere, aiutandoci l'una con l'altra in case comuni che chiamavamo beguinage, nelle periferie delle grandi città. Ci stabilimmo in case vicine o contigue che divennero via via piccoli quartieri. Là, unite dalla stessa religiosità, trovammo un'alternativa al matrimonio e al convento, vivendo una vita indipendente. Non appartenevamo ad alcun ordine riconosciuto dalla Chiesa. Vestivamo una uniforme laica e ci mantenevamo con il nostro lavoro. Se la maggior parte di noi aveva origini umili e povere, nei beguinage vivevano tuttavia anche donne di rango e istruite che avevano scelto la povertà e si esprimevano e scrivevano in lingua volgare di filosofia e teologia, argomenti da sempre considerati di appannaggio maschile, come ci ricordano le sorelle Moderata Fonte ed Elena Corner. Fu così che vivendo del nostro lavoro trovammo il modo di evitare la sottomissione al patriarcato e per questo presto la Chiesa cominciò ad accusarci, a calunniarci e ad assoggettarci a interventi disciplinari. Per entrare si doveva avere almeno 18 anni, dunque più di quanto fosse richiesto a una giovinetta per diventare sposa e madre. Era una scelta che doveva essere ben ponderata per mantenere il movimento serio, sano e moralmente irreprensibile. La postulante veniva accettata se era autosufficiente, in grado di mantenersi, dunque doveva possedere una rendita o un lavoro. Alcune di noi, le letterate, divennero note per le penitenze estreme che si infliggevano, ma per la maggior parte eravamo semplici e pragmatiche lavoratrici, infermiere, tessitrici, lavandaie, ricamatrici, sarte e ortolane di grande equilibrio e buonsenso. Si pronunciava un voto di castità e obbedienza dopo aver vissuto un anno accanto a una tutrice che istruiva la giovane e la affiancava. In ogni caso passavano diversi anni prima di poter occupare nel beguinage una casetta da sola, casetta che doveva essere affittata o acquistata. Le nostre casette erano a un piano, ciascuna col suo camino, costruite tutte in fila attorno a un giardino centrale con una piccola chiesa. La regola era l'indipendenza, dunque non era consentito gravare su nessuna, anche se tra noi ci aiutavamo naturalmente, e chi non aveva mezzi a sufficienza veniva ospitata nella casa comune. Ad ogni modo, la comunità assicurava ad ognuna che ne facesse richiesta il necessario alla sopravvivenza. A loro volta le beghine che lavoravano contribuivano tutte insieme alle spese generali della comunità. Oltre all'attività per cui divenimo note, l'assistenza ai malati e ai moribondi che non venivano accettati negli ospedali e che dunque curavamo nella nostra infermeria o nella loro stessa abitazione, ci occupavamo di sbiancare e lavare la lana, di filare, tessere, cucire, lavare, stirare, creavamo ricami e merletti artistici, facevamo lavori agricoli, producevamo candele e insegnavamo alle fanciulle. Quelle povere venivano istruite gratuitamente, ma alcune di noi accettavano di educare giovinette di buona famiglia e ne ricevevano un compenso, come pure quelle che lavoravano per il béguinage. La gente povera la aiutavamo gratuitamente e le davamo da mangiare alle nostre tavole del Santo Spirito, le prime mense per i poveri che l'Europa conobbe. E dedicavamo molto tempo alla meditazione e alla preghiera. Vestivamo in maniera semplice, senza gioielli né ornamenti, prevalentemente di grigio, nero o marrone. Ci era consentito indossare un abito blu nei giorni di festa e tutte portavamo, affinché nemmeno i capelli potessero essere un ornamento, l'ampio cappuccio bianco con cui ci hanno ritratte nei quadri. In effetti, per studiare e lavorare non occorrevano orpelli. La nostra persona non aveva valore se non come portatrice di servizio e sollievo a chi soffriva. La nostra vita trascorreva all'insegna della frugalità, del servizio, della semplicità, così come le nostre abitazioni, costruite secondo regole prestabilite, inizialmente di fango e paglia e successivamente di pietra, in modo che favorissero un'attitudine di tranquilla operosità. Passavamo i giorni di festa tutte insieme nel béguinage, assaporando quella variazione di colore, il nostro abito blu. Perché nei giorni di festa non si lavorava e dunque era bello stare tra sorelle, condividendo a tavola il cibo e la preghiera. I pasti si prendevano in silenzio, ma dopo ci riunivamo vicino al camino e raccontavamo i fatti della settimana. A nostro modo eravamo felici, di una felicità composta, discreta, consapevole e silenziosa. Non eravamo povere. Per scelta rinunciavamo al superfluo, poiché tanto non ci avrebbe dato nessuna gioia maggiore di quella che provavamo nel compimento della nostra missione. Il lavoro e il servizio segnavano il nostro cammino spirituale, il nostro modo di pregare attivamente. Ci facemmo libere promotrici tanto di pensiero come di azione, molto prima della nascita del femminismo, e miracolosamente, in un mondo tanto patriarcale, la nostra esistenza di donne libere ed emancipate, quantunque dileggiata, venne accettata socialmente proprio grazie alla nostra dedizione al servizio e alla carità. Noi operammo a partire dal 1100 e per 6 secoli non smettemmo di dare il nostro enorme contributo alla società. Le centinaia di ragazze che per non aver dote non potevano né sposarsi né entrare in convento ed erano dunque destinate a una vita di povertà fino alla morte per stenti o alla prostituzione o le due cose insieme, beh, furono le prime a dare l'impulso per la nascita dei béguinage. Quelle donne non avevano altra scelta se non unirsi e tentare con la vita comunitaria di condurre un'esistenza dignitosa. Nel giro di poco fumo centinaia di migliaia, le uniche donne veramente libere in Europa. Della nostra sorellanza fecero parte anche vedove che restavano nelle loro dimore e anche anacorete che vivevano in isolamento fuori dalle case. Suonavamo e cantavamo volentieri. Inoltre leggevamo e commentavamo i testi sacri pubblicamente in lingua volgare e poiché utilizzavamo il volgare anche per i nostri scritti, attirammo i sospetti della Chiesa. La nostra più antica regola, redatta in antico fiammingo, sintetizza mirabilmente la meta finale della nostra esistenza, che era santificare la libertà. La nostra ricerca spirituale era totalmente libera e personale, ci accomunava il distacco dalle chiese, dalla loro ricerca di benefici e piaceri terreni e dal crescente degrado in cui collocavano le donne. Ciascuna di noi perseguiva un ideale di nobiltà e consacrazione nel dedicare la sua vita a uno scopo più alto. Riconoscevamo l'autorità di una grande maestra o di un consiglio di maestre nelle case più grandi. Seguivamo la guida che ci veniva impartita con ferma amorevolezza. Le maestre venivano sostituite periodicamente affinché nessuna di noi fosse tentata dall'esercizio del potere. Vi era poi in ogni casa una responsabile per l'infermeria e una per la mensa dei poveri. Solo la Magna Magistra, la suprema guida spirituale e organizzativa di tutto il nostro movimento, era incaricata a vita e non veniva sostituita. Le più giovani obbedivano naturalmente alle più anziane, rispettando la loro esperienza e saggezza, specialmente durante le uscite. Molte di noi pagarono con la vita, poiché a un certo punto la Chiesa si preoccupò della nostra crescente libertà ed emancipazione e cominciò a perseguitarci e a bruciarci come eretiche. Fu il patriarcato, per screditarci e a ridicolizzare l'appellativo beghina, attribuendogli senso dispregiativo. È così che fanno. Noi fummo le prime infermiere d'Europa. Le nostre infermerie si trasformavano in ospedali durante le epidemie o le guerre, ma di questo nessun libro di storia fa menzione. Le invasioni napoleoniche tentarono di defraudarci delle nostre case e delle terre su cui sorgevano e dovemmo esibire i documenti che ci attestavano la proprietà per non finire tutte quante sulla strada. Avevamo una straordinaria capacità di sopportazione della sofferenza, perché le donne sono obbligate dal dogma patriarcale a guadagnarsi soffrendo il loro stesso diritto all'esistenza. La responsabilità del peccato originale che la Chiesa ci getta addosso è il seme del senso di colpa e del bisogno di espiazione che ognuna di noi cova in sé sin dai primi vagiti. Per questo alcune di noi si infliggevano atroci torture quotidiane, sopportando in silenzio penitenze e digiuni. Forse intuivamo che il rogo avrebbe potuto in ogni momento essere il nostro destino e ci preparavamo così, nel corpo e nello spirito, ad andare oltre la paura. Per noi Dio era madre, era la Minne dei Minnesänger, i cantori dell'amore sacro. La Minne era l'amore nelle lingue germaniche. L'amore sacro e nobile che tutto crea e ingloba, quella signora amore nella quale noi beghine cercavamo di dissolverci e che per noi era una dama, come quelle che aiutarono la sorella Christine a costruire la città delle dame. La parola madre, scrisse una nostra venerabile sorella, Giuliana di Norwich, bella e piena d'amore. È in sé così dolce e gentile la parola madre che non può essere propriamente detta di nessuno e a nessuno se non di lui che è la vera madre della vita e di tutto. Per arrivare a questa unione e divenire noi stesse divine, dovevamo liberarci dall'ego e annichilarci, come scrisse la venerabile accanto a me, a cui lascio ora la vostra attenzione. La donna silenziosamente si ritrasse e lasciò il posto a una delle due che le stavano a lato, la quale si tolse il cappuccio mostrando una chioma infuocata come il sole al tramonto e con voce di sabbia antica e fluida cominciò a narrare. Del mio passaggio terreno, l'unica data certa rimasta nel mondo è quella della mia morte. Fui bruciata sul rogo come eretica il 1° giugno 1310 nella Place de Grève. A Parigi. Nacqui nelle Fiandre, fui aristocratica e colta. Il nome che scelsi per compiere la mia missione fu Marguerite Porete. Scelsi di chiamarmi Marguerite, poiché la radice Marg significa tergere, pulire, e il nome veniva spesso dato alle donne medicina per l'assonanza tra Marga e Maga. E Porete per dichiarare lo stato di povertà nel quale avevo scelto di vivere. Nel Medioevo solo gli uomini erano scrittori di testi, mai le donne, ma io ebbi una cultura teologica e filosofica secoli prima di te, sorella Elena. Fui una fuoricasta. Scrissi non in latino, ma in picardo, il francese volgare che si parlava nella mia terra, e così pure la sorella Mathilde scrisse in basso tedesco. Tutte le nostre opere letterarie erano scritte in lingua volgare, la stessa lingua che usavamo quando leggevamo per il popolo nelle strade, come ci ha insegnato la sorella Ipazia. Io pure fui beghina, il più dolce fiore della libera esistenza femminina in quei tempi oscuri. Dopo aver tradotto le sacre scritture in volgare, produssi il più antico testo mistico della letteratura francese, lo specchio delle anime semplici e annichilate, un miroir, ispiratami dalle sorelle che vivevano con me nel beguinage. Il miroir apparteneva al genere letterario degli specchi medievali, ovvero spiegazioni, insegnamenti. Lo specchio, o speculum in latino o miroir in francese, era un genere letterario medievale dove si discuteva con finalità pedagogica intorno a un argomento tramite un dialogo che veniva recitato come in teatro. E il mio specchio delle anime semplici era uno di questi, era un miroir. Padroneggiavo concetti metafisici che la Chiesa non poteva accettare in una donna. Al contrario di me, miracolosamente il mio miroir, la mia opera, scampò a rogo. In esso tre dame discutono: amore, che nel mio libro è femmina, anima e ragione. Sempre andò a essere tre le dame, come i tre volti della dea, come nelle visioni di Hildegard, come nella città delle dame di Christine. Ero solita passare molte ore in profonda meditazione, a colloquio con la signora Amore, inginocchiata nel mio abito marrone come la terra. Le sorelle rispettavano i miei silenzi e la mia solitudine perché sapevano che stavo scrivendo un miroir. Spesso non andavo a mensa e le più giovani a turno mi portavano di che sfamarmi nella mia cella. Ero talmente assorta che non mi accorgevo se il fuoco nel camino si spegneva. Ma le giovinette che vegliavano sui miei pasti si accertavano anche che io stessi al caldo e di questo provo tanta gratitudine, sebbene poi sia stato proprio il fuoco a finire il mio corpo. Le beghine sapevano che nessuno le avrebbe aiutate, che era necessario sostenersi tra di loro con amore ed empatia. Il beguinage era una scuola di sorellanza. Gli insegnamenti che impartivo attraverso il mio testo erano contrari a quelli della Chiesa. La mia signora Amore era pura intelligenza, non aveva alcuna connotazione nuziale o sessuale e non scatenava desiderio. Era il sacro grembo della dea in cui si incarna lo spirito. Definivo Dio l'energia divina che muove e permea ogni forma di vita. Il grande disegno che tesse trama e ordito del cammino umano. Identificavo il male con la dualità, l'io e il suo desiderio di appropriazione di qualsiasi qualcosa che ritiene separato, esterno da sé. Il massimo bene, invece, è l'umiltà. Come per le mie sorelle del beguinage, obiettivi erano la sconfitta dell'ego, l'eliminazione di ogni attaccamento, la rinuncia all'avere per perseguire l'essere. Nel libro mi rivolgo agli smarriti, coloro che pur avendo raggiunto la purificazione sentono che c'è ancora qualcosa oltre e scoprono il totale annullarsi nell'energia divina, nel silenzio dell'ego dove l'anima annichilata vive priva di desiderio e sceglie di abbandonare la propria volontà, si libera dalla memoria e trascende la percezione sensoriale, laddove l'anima sceglie di non scegliere. La signora Amore mi parlava continuamente all'orecchio, suggerendo alla mia mente e alla mia comprensione concetti che raramente erano stati compresi per intero. Lei mi ricordava che ero libera dentro. Voleva che sentissi la vita e la presenza, essendo risvegliata, che riconoscessi come unica chiesa la nostra, semplice e invisibile, senza dogmi e ispirata alla vera carità. Il mio miroir, il mio specchio delle anime semplici, fu bruciato una prima volta in mia presenza. Fui diffidata dal vescovo dal darne di nuovo pubblica lettura, ma lo riscrissi e il libro continuò a circolare. Allora fui arrestata e consegnata a Parigi nelle mani del grande inquisitore di Francia, il quale tentò per più di un anno e mezzo di farmi parlare, costretto a consultare 21 teologi dell'Università di Parigi per fornire un fondamento credibile all'accusa di eresia e concludere il processo con la mia abiura, ma non trovò nulla. E io fui infine mandata a rogo non per aver scritto quel libro, ma per aver scritto. E basta. Gli inquisitori videro in quest'opera la possibilità di un'emancipazione femminile inaccettabile per il dogma androcentrico patriarcale. La signora Amore, sempre accanto a me, mi sosteneva e mi illuminava. Avevo scritto nel miroir: l'anima non risponde a nessuno se non vuole. Durante tutto quel periodo mi chiesero di pentirmi, ma scelsi di andare al rogo come una regina, senza degnarmi di rispondere ai giudici e non riconoscendoli nemmeno come tali. Ormai il mio corpo era quello di una donna anziana e la mia anima era forte e invulnerabile. La mia unica colpa, violare l'antico divieto patristico che vietava alle donne di insegnare pubblicamente e proporre una religione senza gerarchie né beni terreni. La mia condanna a morte era inevitabile. Fui legata al palo e il libro originale in francese volgare fu gettato sulle stesse fiamme che divoravano il mio corpo. Per 2 secoli l'unico manoscritto sopravvissuto, una traduzione latina copiata in segreto più volte, tramandò il ricordo. Poi sulla mia opera scese l'oblio per secoli. Il mio contemporaneo, Meister Eckhart, si ispirò molto alla mia opera, ma lui non fu processato né arso vivo, poiché, essendo uomo, non gli era vietato pensare, scrivere o predicare. Marguerite restette immobile, col viso corrucciato, come sentendo ancora sulla pelle la fiamma bruciante. Poi, improvvisamente, si riscosse, si rimise il cappuccio e fece un passo indietro, segnalando all'altra donna con un cenno del capo che aveva finito. L'altra si alzò e stette un momento zitta, come per raccogliere le idee. Voleva scegliere bene le parole, cosicché in quel sacro convito nessuna fosse superflua o ridondante. Giunse le mani in preghiera, poi sfilò il cappuccio, scoprendo i folti capelli, e iniziò a raccontare. Anche io, come te, Marguerite, nacqui da stirpe nobile. La bassa Sassonia fu la terra dei miei natali, 50 anni prima di te. Mi battezzarono Mechthild, che significa Matilde. Ricevetti un'educazione accurata e fin dall'età di 7 anni ebbi visioni apocalittiche, come la sorella Hildegard, alla quale mi accomunano come profetessa e sibilla. A 12 anni ricevetti la visita dello spirito che mi salutò con un beatissimo fluido. Quel saluto veniva da me ogni giorno e aumentò costantemente per 31 anni. Attorno ai 20 anni lasciai la mia famiglia per seguire la chiamata e vissi 30 anni da beghina in una delle case, quella di Magdeburg, da cui presi il nome. Non entrai nella chiesa regolare, detestavo la condotta dei chierici e dei monaci dissoluti. Volevo stare con donne che condividessero le mie visioni e le mie scelte di vita, ciò che sentivo e che per me era importante. E trovai, nella casa di Magdeburg, dove si praticava la povertà, la castità, il servizio e l'umiltà, l'ambiente ideale per sviluppare le sensazioni che provavo quando mi univo all'energia creatrice. Con libertà e arditezza descrissi le mie visioni, che la Chiesa considerava imbarazzanti, usando il linguaggio erotico che noi mistiche allora adoperavamo per descrivere la nostra unione col divino. L'audacia di parole e immagini senza freni dei miei scritti, poiché ero beghina e dunque libera, sollevò contro di me una tempesta di molestie e persecuzioni, e indusse i domenicani ad obbligarmi, ormai ultra sessantenne, al trasferimento nel convento di Helfta, dove vissi per oltre un decennio. Un sinodo dichiarò fuori legge le beghine, tuttavia, poiché sempre dal male nasce il bene, grazie a ciò finalmente mi stabilii, ormai anziana, in un luogo di pace dove trovai compagne sapienti e della mia stessa profondità spirituale. Questo monastero in Sassonia, nella quale vissi i miei ultimi anni, specialmente in compagnia della loro notevole badessa Gertrude di Hackeborn, con la quale discutevo giornalmente i più complessi argomenti della filosofia mistica. Trascrissi la mia vita e le mie visioni su fogli che lasciavo sparsi e che furono poi ricomposti e suddivisi ad opera del padre spirituale che, come il monaco Folmar per Hildegard, mi fu mandato dalla provvidenza per preservare in un libro l'opera mia. Pescai ampiamente dal linguaggio dei Minnesänger, i cantori d'amore medievali, trasferendo però le metafore dall'amore tra uomo e donna a quello tra essere vivente e energia creatrice onnipervadente. Per Per creare metafore e allegorie filosofiche, introdussi l'uso di parole della vita quotidiana in basso tedesco, così da rendere comprensibile il mio sentire anche a chi non aveva istruzione e non capiva il latino utilizzato tradizionalmente dagli ecclesiastici. Scrivevo nel linguaggio di fuoco dell'amore erotico, versi teneri e appassionati come di innamorata, poiché in effetti io amavo. Avevo sensazioni fisiche che solo un amante poteva sentire e tra poco vi spiegherò perché. O santo angelo Gabriele, scrivevo, a te affido il messaggio del mio desiderio, questa lettera d'amore desti i sensi. Quando il nobile principe e la misera serva si abbracciano con tanta intimità, scrivevo, e sono uniti come acqua e vino, allora ella viene annientata ed esce di sé come se non potesse più sopportarlo. Egli è però malato d'amore per lei, come lo è sempre stato. Allora ella dice: Signore, tu sei il mio amato, il mio desiderio, la mia fonte fluente, il mio sole, e io sono il tuo specchio. Così accade all'anima, scrivevo, che è stata infiammata con tanto ardore nel caldo amore duraturo da perdere completamente i sensi. Ti prego, caro giovinetto Gesù, scrivevo, vieni come mio amatissimo sposo e regna poi su di me come fanno i nobili sposi quando danno alle loro spose i ricchi doni del mattino. Vieni ad accogliermi nelle braccia del tuo amore e coprimi col manto del tuo grande desiderio. Tutto questo io scrivevo nel testo considerato il primo in prosa della letteratura tedesca, intitolato La luce fluente della divinità. Ancora scrivevo, pensate forse che io non senta questa natura? Gesù io prendo sotto braccio e lo mangio e lo bevo e faccio di lui ciò che voglio. Signore, non vorresti accogliere domani l'anima mia quando avrò ricevuto il tuo sacro corpo? In realtà, sebbene umili, avevamo un'alta opinione di noi stesse in quanto donne. E il comportamento degli uomini del tempo, così rozzo, violento, ignorante, insultante, non ci lasciava altra scelta che innamorarci dell'unico uomo che non ci avrebbe deluse o sminuite o mortificate, l'uomo divino, il solo degno di congiungersi con le donne divine che eravamo. Per nessuno di inferiore a un uomo divino avremmo potuto provare tale trasporto, spendere il nostro amore e abbandonarci all'estasi mistica dell'unione di anima e sensi, e grazie al fluido che produceva il nostro corpo a tale contatto, noi eravamo totalmente appagate, come cercatrici spirituali e come donne. L'orgasmo mistico fu per noi la modalità per raggiungere l'estasi e il risveglio spirituale attraverso il corpo. E ora, sorelle, posso svelarvi da dove veniva la potenza della nostra estasi mistica? Vi è nel corpo femminile un corpuscolo che fu riconosciuto solo 6 secoli più tardi e venne nominato ghiandola di Lushka dal nome del suo scopritore. Questa ghiandola, posizionata sulla seconda vertebra del coccige, si trova alla fine di un canale di energia che inizia con la ghiandola pineale. La ghiandola di Lushka forma un triangolo con gli altri organi preposti al piacere che la donna possiede, porta d'ingresso alla conoscenza femminile e alla connessione tra sessualità e trascendenza. Quando questo circuito viene attivato completamente, si ha la sensazione di espansione totale e connessione universale che chiamiamo estasi. Grazie all'orgasmo, noi donne rilasciamo dopamina, ossitocina, endorfine che attraversano il corpo come un'onda, aprendo il passaggio alle esperienze statiche trascendenti. Quest'onda attiva nel cervello le stesse aree che si attivano in meditazione quando si risveglia l'energia detta Kundalini. La natura perfetta aveva progettato che la sessualità avesse anche una valenza spirituale, ma la brutalità degli uomini aveva bloccato e cancellato questa funzione del corpo femminile che noi istintivamente avevamo risvegliata senza sapere cosa fosse. Lasciai il piano di esistenza terreno serenamente, accudita con amore dalle sorelle di Helfta. Il mio corpo contava 75 natali e la mia anima era in pace, per aver messo a profitto ogni istante del mio passaggio. Poco dopo la mia morte, Il mio libro, Luce fluente della divinità, che avevo scritto in basso tedesco, fu tradotto in alto tedesco e poi in latino. La versione latina annacquò il mio stile poetico disinibito e lo assoggettò alle regole della teologia scolastica. La traduzione si trasformò in una vera e propria revisione del mio testo, che venne epurato dai passaggi più sensuali, giudicati sconvenienti e offensivi dalla Chiesa. E fu in questa traduzione latina che si imbatté il poeta italico Dante Alighieri, adepto dei fedeli d'amore. Dai regni dell'aldilà, descritti nelle mie visioni, egli trasse ispirazione per la sua commedia, la Matelda che lui incontra nel paradiso terrestre, oltre il fiume Lete, passeggiando, cantando e cogliendo dei fiori, sono io. Sono io quella Matelda che Dante udì ridere nel purgatorio per la gioia che le dà la contemplazione della creazione, io che lo immersi nelle acque del fiume Lete per mondarlo attraverso l'oblio di sé e poi, una volta sveglio, tornai ad immergerlo, questa volta nel fiume Eunoè, che significa buona conoscenza, le cui acque lo resero puro e disposto a salire le stelle. Noi beghine lavorammo insieme per portare le donne in sorellanza più avanti nel cammino verso la liberazione dai vincoli patriarcali, ma non fummo le uniche ad essere splendidamente unite e impegnate in così nobile proposito. Quando le ultime di noi erano ancora vive nel 1800, nonostante il re prussiano avesse proibito le vocazioni, un altro gruppo di donne dedicò la vita all'ottenimento di un grande diritto che il patriarcato ci aveva negato, il diritto di voto e di giurisdizione sulla prole. Queste donne furono le suffragiste, le madri del movimento, Millicent Fawcett, Emmeline Pankhurst e le sue figlie, Christabel, Adela e Silvia, sono qua oggi per condividere la loro storia. Mathilde tacque. E noi tutte, tirate in piedi da una forza invisibile, ci alzammo come fiori del deserto, che nutriti dall'umidità notturna, sbocciano improvvisamente. 7. Cerimonia d'acqua nel Wadi. Era ormai mezza mattina e sentivamo il bisogno di corroborare i nostri corpi che erano stati a lungo seduti in ascolto. A pochi metri dal nostro piccolo accampamento c'era un wadi, una gola nella quale scorreva acqua pura e freschissima, un miracolo geologico che il deserto regala a chi sa cercare. Lasciammo scivolare a terra ciò che ci vestiva e, protette dall'invisibilità che il deserto sconfinato ci offriva, nude sotto il sole, conservando solo le calzature per non bruciarci le piante dei piedi, ci avviammo liete, gustando quella libertà, verso l'ombra offerta dalle pareti del canyon. In fila entrammo nell'acqua gelida che scorreva dal ventre della terra. Il sole e il caldo restarono dietro di noi mentre ci immergevamo via via fino al petto col fiato mozzo in quel meraviglioso corso d'acqua cristallina. Gertrude, sicura, ci guidava dentro il canale all'ombra delle fresche pareti della gola, nell'acqua sempre più fredda. A un certo punto il torrente si incuneava nel sottosuolo in una specie di caverna e noi esitammo un po' perché ad alcune l'acqua arrivava già alla gola. Ma Gertrude, che era molto alta, proseguì senza fermarsi e noi la seguimmo, in parte camminando, in parte nuotando, riponendo piena fiducia in lei che aveva vissuto a lungo in quei luoghi. Una volta che fummo tutte dentro la caverna, potemmo concentrarci sulla bellezza che ci stava intorno. I nostri corpi si erano abituati alla temperatura dell'acqua, scintillante di mille sfumature di verde smeraldo per i raggi del sole che entravano trasversalmente dalle fessure nella roccia. I riflessi sinuosi dell'acqua sulle sue pareti trasformavano la caverna in una sorta di luminescente ventre serpentiforme. Guardando in basso, vedevamo nell'acqua trasparente i nostri corpi, lucenti come pesci, fino ai piedi adagiati sulla sabbia candida. Ci posizionammo in cerchio nella grotta e insieme chiudemmo gli occhi per concentrarci sulla sensazione dell'acqua sulla pelle e sulla eco dei respiri che come una musica la roccia ci restituiva. Poi un suono uscì dalle nostre gole. Un unico suono accordato, come lo avessimo preparato. Un suono di creazione della vita sempre più potente faceva vibrare l'aria e l'acqua e ci trasportava nella dimensione della vita intrauterina, restituendoci pienamente la memoria della nostra millenaria permanenza nel sacro ventre della grande madre. Via via che ci sentivamo pronte, ci immergevamo nell'acqua anche col capo, così da essere completamente assorbite da quel prezioso liquido amniotico ancestrale. Ciascuna coi suoi tempi si immergeva, rimaneva in apnea e poi riemergeva per respirare riprendendo il canto. Questo contatto con l'acqua, così intimo e personale, durò finché ad una uscimmo dalla grotta e ripercorremmo in silenzio a ritroso il wadi fino all'imbocco. Rimanemmo per un po' a riscaldarci nude nel sole, coi capelli gocciolanti, mantenendo il silenzio e godendo del rinnovato contatto con la luce dopo tanta ombra. Poi, asciutte, tornammo al campo per proseguire con l'ascolto delle sorelle che ancora dovevano parlare. Ci rivestimmo all'ombra della tenda e tornammo a sedere in cerchio mentre una di noi restava in piedi. Si avvicinò al brico del caffè e se ne servì una generosa tazza. La sorseggiò, contemplando senza fretta l'ombra del wadi da lontano, poi ci guardò con dolcezza e si presentò.